dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderà, fino a quando, quando, quando, d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirla, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Quando, quando, quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.